Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, telefoni aperti da questo momento perché si fa il processo al Milan, si cerca di raccontare questo pomeriggio da psicodramma a San Siro di una squadra che è stata battuta anche dal Parma, è arrivata alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite, Champions compresa, è arrivata alla settima sconfitta nelle 12 partite con Seedorf in panchina. Io non so se Seedorf può continuare a scaricare le colpe sugli altri. Tutto sotto fischi, cori di insulto di un San Siro tanto vuoto quanto inferocito, con Balotelli che è stato invitato nemmeno tanto gentilmente ad andare fuori dai coglioni. Oggi sarà dura non dire parolacce. Saluto Mario Ielpo. Ciao Mario. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Principe del foro. Lui è l'unico avvocato vero, nel vero senso della parola, che si poteva convocare per cercare di difendere il Milan. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Pomeriggio da psicodramma, 800 24 00 24, telefoni aperti da questo momento per il processo. Dai, via al processo. Responsabile della situazione, di quella che si è creato. Io sono venuto qui per cercare di migliorarlo, è diverso, quindi questo discorso non sta in piedi, non sta in piedi. Qui non c'è un colpevole, qui siamo tutti, diciamo, al lavoro per ottenere il massimo. Io non credo che attraverso la contestazione che si può tirar fuori il meglio dai giocatori, però non voglio commentare, e mi sembra che stiamo dando troppa enfasi a questa cosa, che parliamo di calcio e andiamo avanti. Io non so se si è data troppa enfasi, Mario Ielpo, reduce da San Siro tra l'altro, si è perso il gol del 4-2 per correre qui, il gol di Biabiani arrivato proprio al 95esimo, mi sembra fotografia di tutto questo momento sbagliato del Milan anche questo pomeriggio. Sì, una squadra senza capo né coda, questo penso sia apparso a tutti. Credo che comunque la contestazione sia, insomma, una contestazione del 2014, non c'entra nulla con quelle che io ho vissuto sulla mia pelle da ragazzo, soprattutto nella Lazio. Quindi la contestazione non è gran cosa, erano già tutti, come dire, si sapeva come andava a finire anche oggi, erano tutti preparati alla sconfitta. Tutto all'acqua di rose. Sì, tutto all'acqua di rose. Anche se i cori, anche se è una contestazione che va avanti, Carlo, e la racconteremo anche in diretta perché tra l'altro all'arrivo il pullman ha fatto un giro diverso da quello tradizionale e i tifosi non l'hanno presa benissimo, l'avete sentito il coro uscito a mezzanotte. Carlo, hanno chiesto al tuo amatissimo numero 45 di trasferirsi, insomma, fare le valigie e andare via. Benissimo, allora vuol dire che giocheranno con Essien, con Kakà, con Rami, con tutti questi anziani giocatori bolliti. Io credo che la grossa colpa della società sia questa, cioè quella di non avere nemmeno dei giocatori commercializzabili se non Balotelli e De Sciglio. Quindi contestano l'unico giocatore che è ancora vivo, è giovane, può dare qualcosa anche in termini economici alla società vendendolo. La società sta zitta perché? Perché non esiste. E credo che il punto sia questo. Cioè, sì, io credo che tu sia rimasto l'unico a difendere Balotelli. Io non so che voto gli diamo oggi, Mario. Oggi è stata la sua miglior partita degli ultimi 10 che ho visto a San Siro, gli darei 4. Ecco, almeno primo tempo, credo primo tempo inesistente, nel secondo ha provato un paio di progressioni, è anche andato vicino, al di là del calcio di rigore, è anche andato, ha creato un'occasione, credo non fosse facile oggi per lui giocare in quel clima. Oggi si rendeva conto che era una partita che non poteva fare troppo, quello sì, che sta lì per sbaglio, insomma. Però io non sono d'accordo con Carlo, cioè se uno si fissa su Balotelli, a parte oggi che un po' si è dato da fare, quando non ha la palla, se uno è stato un giocatore di calcio gli viene da mettergli le mani addosso, non fa nessuna cosa giusta che si deve fare quando non si è in possesso di palla, e siccome è facile fare le cose quando non si è in possesso di palla uno si innervosisce. Vi faccio sentire Cassano che sta parlando a Sky. Può arrivare molto lontano per la sola motivazione che sono 16 partite che non perdiamo, Io penso che possiamo fare ancora meglio. Posti di Prandelli lo porteresti questo Cassano? Ah, io ti giuro, ho detto anche in settimana, quando è venuto Striscia, mi piacerebbe tanto, perché non ho mai fatto un mondiale, io sto facendo di tutto per metterlo almeno in difficoltà. Lo spero, incrocio le dita, speriamo. La percentuale di Cassano al mondiale? Ma non lo so, non ho la minima idea, io ti ripeto, spero solo che veramente ci possa essere qualche possibilità, sarei contento. Ultima cosa per i fischi che hai ricevuto oggi, il Milan oggi è in caduta libera. Ah, ripeto, io sono tifoso interista e sono contento di essere interista e orgoglioso, del resto non me ne frega niente. Grazie a Cassano. Eccoli, poi. Ha evitato di toccarla piano Cassano, che è stato l'unico giocatore più fischiato, credo, di Balotelli oggi a San Siro, ma è dura anche fare questa classifica. 800 24 00 24, c'è già Fabio da Verona. Vi faccio sentire prima però la difesa di Gagliani prima della partita. Gagliani sulla contestazione. Certo che fa male, anche perché bisognerebbe ricordarsi di tutto un percorso di questo Milan, anche in questi anni, perché guardavo proprio ieri le statistiche, in questo secolo siamo l'unica squadra italiana ovviamente che ha fatto per 15 anni le Coppe Europee, 13 volte la Champions, 2 volte chiamiamo l'Europa League, quindi non saprei come dire, voglio dire cosa dire, è capitato a tutti, alle altre bighe, all'Inter, alla Juve, di star fuori per anni dalle Coppe Europee, speriamo che non succeda a noi, ma se succede si ricomincia l'anno prossimo. Carlo, l'impressione è che non siano parole che scalderanno i tifosi del Milan, non li hanno scaldati. Ma soprattutto un tempo Gagliani parlava a nome della società, cioè la voce di Gagliani era la voce del Milan. Io mi domando adesso qual è la voce del Milan e chi abbia, insomma, l'autorità per rappresentare, o i poteri per rappresentare la voce della società. Gagliani può dire quello che vuole, il problema è che, come sappiamo, è abbastanza esautorato. Io credo che alla radice di tutto questo ci sia un vuoto di potere societario clamoroso, sia nell'indirizzare la squadra, che nell'indirizzare gli atteggiamenti, che nell'indirizzare il futuro, che nell'indirizzare anche la tifoseria, perché il Milan è sempre stato così, è sempre stato molto forte dal punto di vista societario, anche di fronte a contestazioni striscianti che si sono passate in passato, e Mario lo sa benissimo, però il Milan quantomeno era una società molto forte, ripeto, adesso non lo è più. Questa è la voce del Milan, io credo di no. Poi vi faccio sentire anche le parole di Gagliani su Balotelli. Chiedo agli amici da casa, rapidi, 800 24 00 24. Fabio da Verona. Fabio, ciao, buongiorno. Prego. Sì, Gagliani mi ha preceduto. Io volevo dire una cosa: ci stiamo forse dimenticando che siamo uomini e che si può sbagliare. Stiamo parlando della società che ha fatto 8 finali di Champions in 24 anni, ne ha vinte 5. Cioè, l'errore, sbagliare una stagione, sbagliare degli acquisti, è assolutamente umano. Sì, neanche fatta una negli ultimi 10, però, Fabio. Se noi non giustifichiamo l'errore, se noi non giustifichiamo l'errore, a livello sportivo diamo alito al doping in altri settori, diamo alito al fatto che non si possa mai arrivare secondi, che non si possa arrivare terzi. Dico una cosa veloce, poi vi lascio commentare. Se avessimo nello stesso campionato il Barcellona di Guardiola, il Bayern di Enkel, qualcuno non vince, il discorso è chiaro, una arriva prima e una arriva ultimo, certo, nonostante siano squadre che hanno fatto grandi cose. Quest'anno il Milan ha sbagliato, punto. Io credo che contestarlo in questa maniera sia totalmente stupido. Sì, ho l'impressione però, Fabio, chiedo a Mario Ielpo, che il problema non sia tanto soltanto quello che è successo quest'anno, ma sia una somma di delusioni che si stanno mettendo una sopra l'altra. Poi vi dico dopo cosa penso io, però, Ma il problema di adesso credo che sia la mancanza di orizzonte, questo è quello che spaventa il milanista, cioè non è tanto bucare una stagione, che magari i tifosi avrebbero fatto la contestazione lo stesso, problemi magari allo stadio, una partita con un Milan in queste condizioni, problemi, insomma, di contestazione ci potevano essere ugualmente. Il problema è che non si vede che poi da luglio le cose cambiano, arrivano 4 giocatori che ti riportano tra le prime 2-3 del campionato, non si vede questo. Sì, il problema è che poi Gagliani ti risponde in quel modo e secondo me questo fa arrabbiare i tifosi, si muove anche in quel modo, perché a gennaio sono arrivati i giocatori come se non fosse successo nulla, non si fosse fatto un discorso sui giovani, sullo scouting, su cosa doveva cambiare nella società. Chiedo un minuto di pazienza a David e Maurizio. Traffico. Biabiani, colpo di testa, Biabiani, ed è il gol ancora di Biabiani nel finale. Gol di Biabiani nel finale con la nostra squadra a pezzi, è finita. Grazie comunque ragazzi, ciao a tutti. Tutti convocati. scrive Sebastiano al 349-238-6666, bravo Yelpo, è esatto, mancanza di orizzonti di un progetto credibile, pluriennale, per questo che si contesta. Poi c'è Carlo che ci dà degli avvoltoi putrefatti per il discorso che stiamo facendo sul Milan, hai capito? Beh, non lo so. Carlo, ti senti un avvoltoio putrefatto pure? Io sì, abbastanza, cioè, non lo so. Ma se, cosa si può dire, intenda, Carlo? Cosa si può dire sul Milan? Cosa si può dire? Abbiamo convocato un avvocato per difendere. Non sto difendendo molto. L'unica cosa è che quando c'è l'avvoltoio, il putrefatto non è l'avvoltoio, purtroppo. No, esatto. Davide da Roma, Davide. Ciao a tutti, prego. David, piccolo aneddoto di alcuni anni fa, durante una finale di Coppa Italia, Mario Barodelli disse a chiare lettere a Francesco Totti che lui era il futuro, che il numero uno era lui e sarebbe diventato il giocatore più forte del mondo. Belle frasi, complimenti Mario. Io sinceramente penserei bene anche a portarlo ai mondiali, perché uno che fa sempre gli stessi errori in tutti i club dove va, o c'è la pizzicchio o non cresce. Sì, questa settimana si è aperto il dibattito, se anche Prandelli ha senso che aspetti un giocatore così. Sentiamo Maurizio dalla provincia di Caserta. Maurizio. Buonasera, dottore. Prego. Volevo dire che a differenza dell'amico di prima, milanista cosiddetto evoluto, io sono un milanista non evoluto e sono stanco, stanchissimo, come tanti altri tifosi, di essere preso in giro. Sono non è che un anno sbagliato, sono 8 anni sbagliati, senza progetto, senza orizzonti, ci hanno portato bidoni facendoceli passare per campioni. Ancora oggi si continua a parlare, le frasi siamo a posto così, non ci sono problemi. E la voce del presidente dov'è? Dov'è Berlusconi? Io vorrei sentire Berlusconi, Barbara Berlusconi. Sono abituati solo a prendere gli applausi. Oh, Maurizio, adesso qui, ci devono qui, mettere qui, la faccia. Questo è il momento della faccia. Dicessero chiaramente, siamo contenti, chiedo scusa, è una squadra che va rifondata, non ci sono soldi, accontentatevi dei giovani. Benissimo, facciamo 10 campionati con i giovani, siamo felicissimi, ma vogliamo chiarezza, chiarezza, perché non siamo stupidi e non abbiamo l'anello al naso. Grazie Maurizio, mi ha anticipato, perché mi sembra, Carlo e Mario, che oggi fra le cose che siano mancate, sia mancata invece una contestazione, ma non necessariamente cori, insulti, per carità, verso la proprietà. Perché se il Milan è questo, Carlo, c'è anche perché, secondo me legittimamente, ma Berlusconi e la famiglia Berlusconi hanno cambiato politica da qualche anno a questa parte, Carlo. Beh, ma io l'ho detto prima, cioè oggi non si capisce qual è la voce del Milan, perché parla Galliani benissimo, ma Galliani che in passato era la voce del Milan, perché è legittimato da Berlusconi, in questo momento è semplicemente un dipendente molto costoso. Quindi... però non si può dire va bene, politica dei giovani, facciamo giocare Cristante, facciamo giocare non so tutti i giovani della primavera di Inzaghi, chi volete. Al Milan non si può fare questo tipo di politica, perché non è nella così nella configurazione societaria, ed è per questo che si prendono giocatori a fine carriera pagandoli molto come ingaggi. Ricordo che il Milan ha 110.000 euro annui, 110 milioni di 110 milioni di euro, ovviamente, di monte ingaggio annuo, quindi è una squadra costosissima, ma la politica societaria è questa. Per il resto è quello che ho detto prima, cioè il Milan in questo momento non ha una voce di riferimento che non sia quella di Berlusconi, che ovviamente di Milan in prima persona non parla più ormai da molto tempo. In questo momento ha altro cui pensare. Carlo, ti saluto. Ciao Giovanni, ciao Mario, ciao. Arrivederci. Ciao Carlo Genta, lo risentiamo domani a partire dalle 14.05. C'è Donadoni che sta parlando ai microfoni di Sky, proviamo a prenderne un pezzettino. Vivo solo il momento, la realtà, osservo, guardo, ma è chiaro che quando una squadra come il Milan in una situazione di classifica di questo genere, insomma, c'è da aspettarsi anche qualche rimbrotto o qualche contestazione, però insomma io credo che comunque i giocatori del Milan oggi siano andati in campo con tanta volontà, con tanta voglia di fare, con desiderio di ribaltare un po' una situazione complicata, e tant'è vero che dal 2-0 sono passati poi al 2-2 in un uomo in meno, quindi questo significa qualcosa. E io credo che sia giusto dare una mano a questo ambiente, non cercare di affossarlo, anche se magari questo crea discussioni, crea la possibilità a tutti di poter dire qualcosa, ma c'è solo bisogno di tranquillità e di serenità. Sì, Donadone vecchio cuore rosso nero, Mario. No, un grande applauso a uno dei più grandi signori del calcio italiano, ha voluto cercare di aiutare la sua vecchia squadra, però i problemi sono tantissimi. Oggi differenza impietosa, poi parliamo anche di Sedor. Differenza tattica impietosa. Intanto saluto Marco Belinazzo, ciao Marco, collega del Sole 24 Giovanni. Ore. Dici in due parole quali sono, se ci sono responsabilità della famiglia Berlusconi. Io l'ho detto legittimamente, si cambia politica economica nel calcio, l'ha fatto anche Moratti, lo fanno anche tanti altri, però questo si traduce in tanti soldi in meno investiti in questi anni. Il problema fondamentale nasce secondo me da una cattiva comunicazione, che se vuoi è paradossale, visto che Silvio Berlusconi ha fatto della comunicazione uno dei suoi delle sue migliori armi in politica dal punto di vista invece societario. Questa chiarezza nell'indicare gli obiettivi e le modalità attraverso le quali raggiungere questi obiettivi ha creato secondo me confusione e le premesse per questa situazione così difficile che vive e la squadra, ma soprattutto la società Milan. Ecco, si può dire che il futuro non sarà meglio dal punto di vista degli investimenti di quello che è stato negli ultimi anni? Questa settimana si è letto della questione dello stadio, il progetto sull'area Expo da 300 milioni di euro. La verità credo è che nel 2015 il Milan è destinato ad avere grossi problemi di bilancio, a ritrovare quell'equilibrio faticosamente trovato in questi ultimi due anni. E quindi? Io ho scritto e detto che Galliani aveva eseguito in qualche modo gli ordini della società, della proprietà, riportando il bilancio verso il pareggio, cosa che è avvenuta negli ultimi due anni. È chiaro che però una cosa è portare il pareggio in bilancio, quindi non avere più perdite, un'altra cosa è avere risorse per fare gli investimenti. È chiaro che se la Fininvest confermerà di non voler mettere soldi nel Milan, si dovrà o accettare una situazione di lenta e graduale ricostruzione, quindi anche con l'investimento nello stadio si troveranno i finanziatori, oppure aprire a un socio estero. Ma aprire a un socio estero significa sono scenari in questo momento ancora difficili da immaginare. Marco, l'ultima e poi ti saluto: è quindi credibile che in estate possa esserci una o due cessioni obbligate per provare intanto a finanziare il mercato e poi a fare quelle plusvalenze che servono per rimettere in equilibrio il bilancio? È inevitabile, bisogna capire però chi potrà garantire determinate plusvalenze, Balotelli di queste ultime giornate, non è così semplice, vedremo, non saranno tempi facili per il Milan. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Grazie a Marco Belinazzo, stiamo aspettando Clarence Seedorf ai microfoni di Sky Sport. Ivan da Modena, Ivan. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione. Prego. Una delle poche trasmissioni che si può ancora ascoltare in questo palinsesto generale. Ascolti, io volevo intervenire, non sono un tifoso del Milan, ma volevo intervenire perché sono veramente disgustato da questa parola contestazione. Cioè, non si può vedere il calcio, farlo vedere ai bambini sotto l'ottica di 500.000 persone che dicono non uscite a mezzanotte, quelli vanno presi con la polizia e portati in galera, perché io se avessi sotto casa della gente che non mi fa uscire di casa, non è questo calcio. Io giro, vado all'estero, vedo partite perché sono un amante del calcio e fino all'ultimo minuto si incita la propria squadra nei paesi civili dell'estero, non dico in Ucraina o non so dove. Sto parlando di calcio. Non è però solo una prerogativa nostra, Ivan. Mario, a parte che Mario raccontava esperienze in altre piazze, anche più calde di quella di Milano, io credo che in Spagna le contestazioni le conoscano e come. Io non so nemmeno quanto poi influiscano sulla prestazione di una squadra. Non so, oggi il Milan, moltissimo. La contestazione dei propri tifosi influisce negativamente moltissimo, specialmente quando si sentono le singole voci. La singola voce del tifoso che ti dice qualcosa ti uccide. Quello lì nel parterre vicino. Io ho fatto il portiere, quello che ti sta dietro la porta ti comincia a ogni secondo a dirtene una, ti fa andare fuori di testa. Parliamo di Seedorf, Mario. I numeri li abbiamo detti: 7 sconfitte in 12 partite. Ieri Seedorf ha detto sostanzialmente: io non sono responsabile, tutta colpa di Allegri, di chi c'è stato prima. Non l'ha nominato, ma insomma il ragionamento era chiaro. Siamo in attesa di sentirlo. Ma di Allegri chi c'era, non mi ricordo. Prima di Allegri possiamo risalire anche. Possiamo risalire, adesso risaliamo a chi c'era prima di Allegri. Secondo me è poco elegante, e forse nemmeno nel giusto. Non si nasce pronti. Ma non lo so se si nasce pronti o meno, qualcuno ci può appunto nascere, o comunque l'esperienza del calcio può averlo reso pronto ad allenare. Io penso che il Milan che ho visto non l'ho capito. Io non ho contatti diretti con l'entourage, quindi parlo da fuori. Se devo guardare una squadra, facciamo degli esempi concreti, la squadra di Mazzarri può anche non esserci il nome dell'allenatore dietro, però io all'incirca la zecco che è di Mazzarri, no? La squadra di tanto vituperato Zeman, che io non condivido come filosofia di sì, gioco, però un'impronta sua la indovino. La squadra di Guidolin, la indovino. Quella di Seedorf, tu la indovini? Secondo me era abbastanza chiaro sin dall'inizio che era impossibile giocare con questo 4-2 fantasia. È sparito subito, che no? Poi è sparito diventato un 4-4-2, ma mi sembra che i difetti invece non siano spariti. Ti do qualche altro numero: nelle 12 partite con Seedorf in panchina Milan ha subito 19 gol, insomma sono tanti e soprattutto sono numeri simili a quelli di Allegri. Io non so come si fa a dire che Seedorf sta facendo meglio di Allegri, se non per la propaganda, insomma, che può accompagnare oggi anche l'avventura di un nuovo allenatore. Un giocatore come Schelotto, che sembrava un misto tra Garrincha e non so, e Cristiano Ronaldo, e perché Donadoni ha avuto un'ideona, non ha messo una punta di ruolo, ha messo tre contropiedisti eccezionali, e dalla parte sinistra del Milan c'era una ala trequartista messo a fare il terzino, e Bonera che è un giocatore che comincia a avere fatica a coprire grandi zone del campo. Come si è aperta la difesa del Milan dopo 5 minuti sul 1-0, e lì c'era una prateria dove il Parma ha vinto facilmente la partita. Andrebbe studiato. Ci fermiamo pubblicità, poi ripartiamo da Mauro. Dai ragazzi, sabotiamo la domenica degli Ayatollah, sabotiamo la domenica preparata, dai, sabotiamola ragazzi, circondati, soli contro tutti, dai! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Mi correggo, è vero, il Milan ha fatto due finali Champions, 2005 e 2007. Negli ultimi 10 anni ci ha scritto un amico al 349-238-6666 e noi leggiamo senza problemi anche i messaggi che ci correggono. Carissimo avvocato Ielpo, le presento Andrea Mandorlini, allenatore del Verona. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Pomeriggio da psicodramma, lo stiamo raccontando. Tu credo hai vissuto pomeriggi difficili a San Siro, sponda Inter, non sono situazioni facili da gestire. No, non è mai facile, momento così, momento negativo. La stagione che ha preso questa piega, forse magari questa partita in Champions poteva dare di nuovo slancio a una stagione partita in maniera difficile. Male con il Verona, no? Come? Non ho capito. È partita male per il Milan, sì, con il Verona. Insomma, siamo contenti, però insomma era la prima partita del campionato, poi insomma ce ne sono state tante altre, quindi è un momento così. Ho visto anche oggi la partita, si è messa male anche subito, anche quando poi ci sono questi momenti negativi, poi ti gira anche tutto male, interrete numerica, senza portiere. È un momento così, adesso bisogna c'è il rischio resistere. C'è il rischio che ci si avviti poi dal punto di vista psicologico. Credo che le ultime 10 partite di questa stagione saranno un calvario per il Milan. Ma è calvario, adesso insomma sono giocatori importanti che hanno esperienza, quindi al di là delle difficoltà che effettivamente ci sono, però bisogna sicuramente migliorare, serrare un po', come si dice, i ranghi, e insomma può essere anche stagione negativa, però assolutamente bisogna reagire. Non è un bel momento anche per il tuo Verona, letto le statistiche, 2 vittorie nelle ultime 10, 8 punti fatti. Ieri sera mi sembra che l'Inter abbia vinto con merito, insomma, al di là poi degli episodi che potevano cambiarla questa partita. No, beh, con merito, insomma, lo state bravi a sfruttare le situazioni. Noi forse come gioco abbiamo cercato, però come giustamente hai detto, è un momento così, sicuramente non siamo nel nostro momento migliore. E come per il Milan, come tutte le altre, adesso mancano 10 partite, è un peccato, insomma, per noi sicuramente è stata una stagione fantastica, però finire in maniera positiva sarebbe ancora più stimolante, quindi abbiamo 30 punti a disposizione come tutte le altre squadre, quindi sicuramente dovremmo invertire anche noi questo periodo, che è sicuramente non dei più positivi. Ma qual è il problema? Una crisi fisica? Vengono meno delle motivazioni arrivati alla fatidica quota 40? Oppure, non so, ieri sera è rimpiatto Jorginho, perché il mercato di gennaio per il Verona è stato un mercato difficile, diciamo. Beh, insomma, è un po' che Jorginho non gioca più con noi, quindi non è quello. È chiaro che magari inconsciamente arrivare così in fretta a un punto così alto, inaspettato, imprevisto, può avere, però insomma, poi ci sono le partite da giocare individualmente, da preparare. Io credo che li vedo durante la settimana, non vedo questa forma di rilassatezza, però magari nell'inconscio magari qualcosina si può pagare. Poi ogni gara è figlia a se stessa, quindi ieri, al di là dei meriti dell'Inter, sicuramente è un momento così. Anche a noi costruiamo 5-6 palle gol, una volta facciamo gol, adesso insomma abbiamo un po' di difficoltà e perdiamo gol abbastanza così, con facilità. Ho letto che ti sei molto arrabbiato per come viene trattato Toni nelle ultime settimane dagli arbitri. Io ti dico la mia: ieri non era rigore quello di Ranocchia, però è un discorso secondo me che prescinde dal giudizio sul singolo episodio. Ma poteva o non poteva, anche oggi quello del Milan magari è molto simile, in aria ci si tiene un po' di qua e di là, ma Luca viene ultimamente, insomma, soprattutto da circa quasi un girone, perché quando abbiamo giocato in casa col Parma ci fu una polemica del direttore sportivo, direttore generale del Parma, e da quel momento lì poi Luca Toni, pur finendo le partite stremato con un sacco di botte di qua e di là, non viene tutelato assolutamente. Si cerca sicuramente di migliorare l'aspetto offensivo del gioco, e Luca è un attaccante, però Luca da circa 20 partite non viene più concesso assolutamente niente. Dispiace, perché è un ragazzo, ha una mole imponente, è un ragazzo che assolutamente non simula mai le situazioni di gioco. Viene sospetto ogni tanto che gli arbitri, Mario, abbiano una memoria storica quando ci sono le polemiche, questi episodi. A volte sì, però di solito non con i giocatori come Toni. Toni mi sembra un giocatore molto onesto, che fa sportellate. Di solito gli arbitri se la prendono con quelli che li fanno cascare, no, in abbagli clamorosi, quindi con i tuffatori, eccetera. Sì, io non ricordo di Toni simulazioni particolari. Luca è talmente grosso, perché è veramente grosso, quando cade è qualcuno sicuramente fa qualcosa di più forte di lui, perché veramente è difficile buttare giù. Quindi poi come ragazzo, come spirito, non è assolutamente un simulatore. Ecco, io credo che vada tutelato, ritorno magari sullo stesso concetto che ho detto prima: si cerca di un tipo di gioco offensivo, lo spettacolo. Noi non riusciamo a prendere una punizione dal limite non so da quanto tempo, e giochiamo spesso la palla su Luca. Dispiace, perché credo che lui non se lo meriti, al di là della squadra. Per chiudere, ci dai un giudizio sull'Inter? Beh, bene, veniva già un giudizio positivo, e adesso insomma consapevolezza. Beh, insomma, i valori sono importanti, però anche loro magari hanno fatto una stagione non così continua come magari lo stanno dimostrando gli ultimi risultati. L'aveva vinto meritatamente, anche se insomma noi qualcosa da recriminare abbiamo avuto diverse situazioni, il portiere riaprì la partita e non ci è capitato. Ti leggo il calendario dell'Inter: Atalanta Udinese in casa, Livorno fuori, Bologna in casa, Samp, Parma fuori, poi Inter Napoli. In quello stesso periodo il Napoli avrà Fiorentina, Juventus, andrà a Torino, avrà la Lazio, andrà a Parma, Udine, il confronto è a San Siro. Senti, secondo te la corsa al terzo posto è chiusa? Ma i punti di distanza sono tantissimi, però mi hai detto un calendario, poi sembri serie, le partite facili non esistono, però mi sembra buono, mi sembra un bel calendario, loro sono in crescita, possono fare veramente un filotto importante, però ripeto, i punti dal terzo posto sono tanti, e non lo so, perché comunque adesso ho visto anche il Parma, la Fiorentina gioca stasera, quindi sono tante squadre che lotteranno per quel posto lì, però la distanza mi sembra un po' forte, ecco. Non devi mai sbagliare. Grazie ad Andrea Mandorlini. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie ad Andrea Mandorlini, allenatore di un Verona stupendo. C'è il Parma con Donadoni che sta facendo dei numeri eccezionali, ma Mandorlini lo merita, Mario, comunque il premio di rivelazione di questa stagione. Sicuramente sì, nessuno se l'aspettava, ha ridato la giovinezza a Toni, in più a 2-3 peperini che girano vicino, che danno questa imprevedibilità all'azione, ha fatto, vista da fuori, un miracolo. Stiamo ancora aspettando Seedorf, notizie dagli spogliatoi: Seedorf è chiuso con la squadra, non c'è Gagliani, e questa è una novità. Ma il bastone l'ha preso? No, perché ho sentito un'intervista che diceva solo carota o niente bastone, ma oggi forse ha tirato fuori anche il bastone, non lo so. Mauro d'Alessandria, Mauro. Buongiorno, prego. Grazie di avermi richiamato e grazie ai vostri colleghi gentilissimi del call center. Il bastone secondo me ci vuole per il signor Seedorf, perché io l'ho stimato tantissimo al calciatore, chi non l'ha stimato, nonostante che a San Siro è stato contestato anche lui, ma secondo me non è un allenatore e si è permesso un attacco verso Allegri, e lui i risultati di Allegri da allenatore per ora non li ha mai conseguiti. Volevo solo dire tre cose velocissime. Allegri non aveva i giocatori, buoni o cattivi che siano, di rinforzo e rientro degli infortunati. Sì, Pazzini, Ondata, Rapt, Rami e Sien, per, e anche i terzini italiani che lui non fa giocare assieme per far giocare, mi perdoni il termine, un bidone di aletta sinistra che non ha mai convinto nessuno, e tiene De Sciglio in panchina in Coppa dei Campioni dicendo che per lo risparmio per la giornata successiva che è squalificato. Sì, c'è stata un po' di confusione anche secondo me dal punto di vista comunicativo, cosa che ripeto non è da Milan. Grazie Mauro. Salvino da Lecce, 800 24 00 24. Salvino, buonasera. Prego. Presumo che si dia troppa colpa in giro, ma io presumo che la colpa sia anche della società. Sarebbe bastato prendere Otassotti, che conosce bene la squadra, finire il campionato con Galliani e poi si ricominciava con la nuova proprietà, con la figlia di Berlusconi, senza andare a fare tante cose eclatanti che non c'entrano niente con il calcio. Presumo che Tassotti, ma forse anche lo stesso Pippo Inzaghi, ma più Tassotti, avrebbero risolto il problema come Tassotti l'ha risolto diversi anni fa nella stessa situazione. Io credo Salvino, che si possa prendere l'esempio dell'Inter, cos'è stata l'Inter l'anno scorso con un allenatore che magari diventerà bravissimo come Stramaccioni, Mario, e invece cos'è quest'anno anche dal punto di vista della costruzione, della logica, con Mazzarri che è un allenatore d'esperienza. Ma io sì, una prima riflessione che ho fatto con alcuni addetti ai lavori su questo argomento è che il Milan aveva bisogno di un allenatore rodato, in più secondo me anche di un allenatore di polso. Io penso che i grandi allenatori sono quelli poco simpatici. Io ho avuto un grande allenatore poco simpatico come Capello, un altro come Mazzone, anche se Mazzone insomma aveva un po' un doppio volto, sia simpatico che antipatico. Mourinho è il re degli antipatici, ma è un grande allenatore. Sì, troppa. Quindi, filosofia e troppi sorrisi, esatto, da Seedorf. Vi leggo cosa ha scritto oggi Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport: l'ironia come la pazienza ha un limite, questa volta pare che Massimiliano Allegri non sia riuscito a metabolizzare come altre volte i giudizi taglienti di Seedorf, e quindi la maschera impassibile dell'aziendalista che accetta tutto per il bene del club sta per cadere. Ho l'impressione che quando si toglierà qualche sassolino dalle scarpe Allegri ci sarà da leggere con attenzione. L'ho incontrato una settimana fa, ne abbiamo parlato del Milan, è stato molto, era molto, cosa come ti dire, ha detto? No, era veramente una persona, cioè senza rancore, spontaneo, ha parlato molto apertamente ed era molto sereno. Mi sono molto meravigliato. Io al suo posto avrei avuto il dente avvelenato. Invece sì, ma io ho l'impressione che molto quello sereno, che ha sentito forse cambierà. Ieri, ecco, probabilmente abbia cambiato un po' anche il suo approccio. Traffico. Lavorare e trasmettere principalmente anche un po' di entusiasmo, allegria, quello che è fondamentale per poter fare al meglio il suo lavoro, no? Tutti convocati. Se qualcuno ha visto Seedorf, telefoni, 800 24 00 24, o anche se non l'avete visto, telefonate solo per dirci cosa ne pensate della caduta verticale del Milan. Comunque, al di là degli scherzi, noi stiamo aspettando Seedorf. Giovanni dalla provincia di Teramo. Giovanni. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo intervenire sul Milan e concordo con quello che più o meno avete detto fino adesso, che forse sarebbe stato più il caso di prendere un allenatore di esperienza, la Trapattoni ad esempio, che sapesse usare più il bastone che la carota in questa situazione. Ma volevo aggiungere che forse questa situazione è stata creata dal finale di stagione dell'anno scorso, in cui il Milan è stato portato in braccio dagli arbitri in Europa, gli hanno regalato una quindicina di rigori, una ventina di punti, anzi hanno dovuto togliere pure qualcuno alla Fiorentina, e questo forse ha fatto illudere il signor Galliani, che aveva ancora una squadra in grado di primeggiare in Italia. In realtà era una squadra già stracotta, e solo Balotelli e i rigori è riuscito a portare ripeto in Europa. Perciò Giovanni, le facciamo rispondere da un giornalista che segue con grande attenzione le cose del Milan, vice direttore della Gazzetta Umberto Zappelloni. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Noi l'abbiamo convocato per parlare di Formula 1, sono sincero, però l'attualità ci rende impossibile. Ma non vedo perché state cercando sede, tanto la colpa è sempre tutta di Allegri, no? E allora cercheremo Allegri. Dirà che è colpa di Allegri. Ma noi abbiamo qui un testimone diretto, Mario Ielpo, che l'ha incontrato qualche giorno fa e ha detto qualche giorno fa era tranquillo. Tuo giornale pare che abbia cambiato qualcosa nelle ultime ore. Devo dire che l'ascoltatore non ha tutti i torti. L'anno scorso il Milan è stato tenuto in vita artificialmente con un finale di stagione dove Allegri ha fatto un miracolo per portare il Milan comunque a lottare per un posto in Champions League. Era stato un miracolo, poi qualche aiutino sinceramente c'è anche stato, però il Milan aveva meritato quella posizione e forse questo aveva allontanato il bisogno di rifare la squadra. La squadra andava già rifatta, non dall'anno scorso, dall'anno precedente, insomma, da quando si è incominciato poi a vendere le stelle, ma non si è provveduto a sostituirle con dei giovani su qualcosa che potesse costruire un futuro. Si è cercato di rappezzarlo con degli acquisti a costo zero, a parametro zero, che fanno il tempo che trovano, insomma. Abbiamo visto gli ultimi arrivi in casa Milan sono stati più dannosi che altro, e il problema è che non vedo una via d'uscita da questa crisi, perché finché Berlusconi non ci farà capire cosa vuol fare di questa squadra, se vuole ancora investire, se vuole cedere una parte, sempre che qualcuno la voglia comprare, della società o cos'altro, è difficile con questa rosa pensare a un futuro diverso, qualsiasi sia l'allenatore. Sì, tra l'altro una rosa che quasi certamente perderà Balotelli, un po' per questione di bilancio, l'abbiamo spiegato prima con Marco Bellinazzo, un po' perché la frattura di oggi tra Balotelli e il pubblico, Mario era San Siro, correggimi se sbaglio Mario, è di quelle che non si possono ricucire. Difficile, lui l'ha gestita molto bene, è stato bravissimo da questo punto di vista, però sulla lettura delle formazioni c'è stato un boato di fischi al nome di Balotelli incredibile. Sì, ma poi l'abbiamo detto, e poi anche durante anche la partita, poco elegantemente, anche nel riscaldamento non poteva tirare in porta, lui nel riscaldamento ha tirato in porta 2-3 volte sbagliando il tiro e quindi poi ha dovuto smettere perché lo fischiavano da morire. Direttore, ma ha senso per il Milan pensare di costruire anche il futuro su Balotelli? Ma mi sembra difficile. Io l'altro giorno scrivevo, commentando l'uscita di scena dalla Champions, che non sarebbe follia pensare di costruire un futuro sui soldi che potrebbero arrivare dalla vendita di Balotelli, perché Balotelli si è visto che da solo non ha purtroppo il carattere per tirare fuori una società, una squadra dalla crisi. Lui ha bisogno comunque di un ambiente che funzioni, per funzionare al meglio, come è stata nella seconda parte della stagione scorsa. Lui da gennaio a giugno dell'anno scorso ha fatto una grande stagione. Di Balotelli io vi ricordo una partita straordinaria nella semifinale della Confederation con la Nazionale. Le altre ha fatto dei grandi colpi da campione, però ogni tanto è anche scomparso dal gioco. L'ultima due occasioni, l'ultima partita. Sì, quello di Madrid è stato un tradimento dal punto di vista dell'approccio oggi, mentale alla partita. Oggi è vero, oggi ha reagito in modo odioso agli insulti del pubblico, perché un Balotelli sappiamo come può reagire ai fischi e agli ululati del pubblico, anche soprattutto del pubblico suo. Invece oggi è stato tranquillo. Mi piacerebbe sapere cosa si è detto con Cassano all'inizio della partita. Sì, c'è stato questo dialogo. Questo dialogo mascherato è stato l'oggetto della conversazione. La conversazione potrebbe essere il prossimo mondiale. Cassano ci vuole andare a tutti i costi, Balotelli comunque ci andrà, non lo so. Io pensavo parlassero del Milan. Io penso che parlassero del Milan e di Sedo, di quello che Cassano chiama Obama e ha chiamato Obama anche oggi durante la partita, insomma. Sì, Cassano che credo oggi abbia goduto come un riccio, lo dico anche la moglie, c'è data un'occhiata ai tweet della moglie, anche la moglie. Anche la moglie. Noi l'avevamo convocato per la Formula 1, adesso abbiamo un paio di minuti, però gli chiediamo se questo quarto posto, perché tale è diventato dopo la squalifica di Ricciardo, quarto di Alonso, settimo di Raikkonen a distanze siderali da Nico Rosberg, Gran Premio di Melbourne, apertura del mondiale di Formula 1, può essere considerato un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per la Ferrari? Io ho paura che il bicchiere sia drammaticamente vuoto, perché la Ferrari è vero che è arrivata a 35 secondi, però va considerato che c'è stata una safety car in pista. Sì, sarebbe stato un minuto. Quindi sarebbe stato, se non un minuto, una cinquantina di secondi. E davanti c'è la Mercedes, c'è la Red Bull che comunque va considerata davanti, c'è la McLaren e temo che ci possa essere anche la Williams, perché senza l'errore di Bottas sull'incidente che ha tolto di pista Massa all'inizio, probabilmente anche la Williams finiva davanti alla Ferrari. La Ferrari ha un grosso problema di velocità. Si era visto in prova, nelle prove private, nelle prove libere Gran Premio, si è visto in qualifica ieri, si è rivisto oggi in gara. io preferirei sempre avere una macchina molto veloce che si rompe. La Ferrari è una macchina invece che non si rompe ma che non è veloce, e trovare velocità mi sembra che sia più difficile nella in questa Formula 1 di oggi, dove sì, però non è detto che poi vincano le macchine più veloci. L'unico dato positivo è che sono arrivate tutte e due in fondo, oggi sei meno diciamo alle nuove regole, avremo tempo di testarle già a partire dal secondo Gran Premio della Malesia. Sei anche generoso dagli sei meno, perché ci sono stati dei passaggi di Gran Premio veramente noiosi, piloti che cercavano di risparmiare piuttosto che essere più veloci, insomma, quindi le regole sono decisamente da rivedere, e la Ferrari forse è messa un po' meglio del Milan, ma non moltissimo meglio. Sì, al vantaggio che è a inizio stagione. Esatto, un vantaggio che è a inizio stagione e che comunque ha un'affidabilità su cui lavorare, e ha comunque sempre uno dei 3-4 migliori piloti su piazza, quindi questo va tenuto conto. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Umberto Zappelloni. Vi faccio sentire Gagliani, sempre in attesa di Seedorf. Gagliani su Balotelli. Gagliani. Intanto io sono molto contento dell'acquisto di Balotelli e credo che lo debbano essere i nostri tifosi. Se la società non avesse avuto l'intuizione l'anno scorso, alla fine di gennaio, di prendere Balotelli, certamente non saremmo andati in Champions League quest'anno, questa è la mia convinzione dopo 28 anni da CEO del Milan, perché Balotelli ci ha dato una grande mano l'anno scorso, l'ha data anche quest'anno, e quindi mi sembra ingenerosa, soprattutto non tanto nei miei confronti, che non parlo di me stesso, ma Balotelli, voglio dire, in questo anno, perché è passato un solo anno da quando il Milan ha fatto, se guardiamo il numero di gol fatti, è l'attaccante che ha fatto, è il giocatore che ha fatto più gol per il Milan, poi è un leader, non è un leader, sta crescendo, tutto quello che si vuole, è che purtroppo in mente resta solo l'ultima partita. Intanto notizie da San Siro, una delegazione di ultras sta andando a incontrare un gruppo di milanisti. Queste cose a me fanno dire avvocato Ielbo. No, passiamo oltre, dai, non ne voglio parlare. Passiamo oltre. 800 24 00 24, ci fermiamo, c'è il notiziario, poi arriva Pierluigi Pardo, poi parliamo anche della Juventus, però diteci tutto quello che pensate sulla caduta del Milan. 800 24 00 24. Ragazzi, sto arrivando, fra poco. 800 24 00 24, continuiamo, tutti convocati, weekend, fra poco. Tutti convocati. È arrivato Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Benissimo, telefoni che esplodono, centraline che esplodono. Ripeto il numero, 800 24 00 24. Allora, la notizia ve l'abbiamo data, c'è anche rimasto l'avvocato Mario Ielpo, convocato per difendere il Milan. È comparso Seedorf, 800 24 00 24. Allora Pier, se sei d'accordo, sentiamo Seedorf, che ha appena incontrato insieme alla squadra una delegazione di 4 capi ultra nel ventre di San Siro, cosa che io ritengo uno sconcio, lo dico, Sentiamo Seedorf. Questo secondo incontro che a noi risulta un po' strano, Clarence. Sì, intanto buonasera a tutti. No, sono sempre situazioni delicate, no? Le persone che hanno comunque cuore per questa maglia, per questa società, sia dentro il campo sia fuori dal campo. Comunque l'incontro è stato molto pacifica, la gente ha espresso un po' i loro sentimenti, ma diciamo niente di particolare in questo senso, sono tutti che vogliono il bene del Milan, e quindi in questo momento, dopo due anni diciamo di sofferenze, comunque si sentivano di dover esprimersi, prima la partita, durante la partita e poi dopo la partita. C'è stato questo incontro che è durato poco, breve, però molto molto pacifico. Era già successo nella sua carriera prima, Clarence, da giocatore e non da allenatore, da giocatore del Milano fuori? Sì, no, diciamo, ripeto, sono stato là un attimo per semplicemente assistere, direi comunque anche alcune cose positive, perché c'è grande rispetto per la maglia da parte di tutti, e le parole sono sempre in quella direzione. Ho vissuto a Inter una situazione simile, e poi anche a Botafogo ho avuto una situazione dove c'è stata un contestazione incontro, forte. Contestazione, sì, ma sai, non, il nostro caso la Botafogo, per dire, eravamo quarti in classifica, stavamo lottando per entrare quinti, per entrare in Libertadores dopo 17 anni, quindi anche lì c'era un po' un sentimento. Vabbè, di paura, insomma, no? Seedorf è stato contestato anche al Botafogo da giocatore, poi andiamo avanti a sentirlo. Pier, dai, dimmi cosa pensi. Penso che vabbè, sul fatto che i tifosi possano incontrare Seedorf sono meno drastico di te, nel senso che comunque secondo me fa parte di una liturgia, perché nei momenti in cui è pacifica, se si scrive pacificamente, è accettabile. È chiaro che non stiamo parlando di una società siderurgica, stiamo parlando di una società di calcio che quindi evidentemente è basata sui sentimenti. Poi chiaramente ci sono anche i tifosi non organizzati che sono meno rappresentati, su questo sono d'accordo con te, insomma è ovvio che dici perché questi quattro, e perché la curva può incontrarli e il tifoso abbonato di un altro settore invece non ha la possibilità di incontrare Seedorf. Però insomma, io credo che in questo momento non so, a me Pier piacerebbe un calcio dove ognuno sta al suo posto. L'avvocato Jelpo mi raccontava mentre c'era il GR che ha avuto delle esperienze non tutte positive di questi incontri. Ma quelle negative sono, cioè, il discrimine è la violenza, ragazzi, non è che c'è molto a discutere. Poi perché devi aprire le porte degli spogliatoi ai capi ultra? Io faccio fatica, avvocato Jelpo. Ma se posso, no, se, secondo me è sempre sbagliato, perché poi dopo hanno voce in capitolo in tutto. Se domani Milan vuole prendere un giocatore, possono dire se lo vogliono o non lo vogliono. Bisogna ascoltarli in altre sedi, non dopo una partita quando si è perso, perché non c'è mai, c'è sempre insomma una pressione che è al limite della violenza, sempre. Pier? No, cioè, è chiaro che c'è un'area grigia, che questo limite della violenza io posso capire, lo posso immaginare che ci possa essere, però insomma, se in questo caso invece non c'è violenza e c'è un confronto, semplicemente una richiesta di chiarimento, magari una richiesta d'aiuto alla curva. La curva comunque un suo ruolo ce l'ha. Se oggi l'atmosfera surreale che i cronisti ci hanno raccontato di Milan Parma non ha certamente aiutato il Milan. Mazzarri recentemente, non mi ricordo in quale partito, si lamentò dello scarso. Ma anche Conte recentemente l'ha chiesto, ha chiesto la Bolgia. Hanno un ruolo, poi è evidente che questo ruolo... Sì, io trovo sempre, Pier, però delle contraddizioni, no? Ti dico la verità, perché poi sono le stesse società che si lamentano quando le cose non vanno bene, nel senso quando ci sono episodi, poi magari che sfociano nella violenza o da censurare, e invece ci sono questi rapporti privilegiati che secondo me andrebbero eliminati alla radice, no, così poi da eliminare... Sono potenzialmente pericolosi perché diano degli spazi che sono degli spazi che potenzialmente possono diventare di ricatto, su questo non ci sono dubbi, però fin quando non c'è la violenza, secondo me è accettabile, cioè non mi scandalizza. Poi mi scandalizza nel momento nel quale c'è la violenza, perché quando c'è la violenza chiaramente usciamo da un territorio che può essere difeso e difendibile. In generale sulla prestazione invece del Milan, insomma, questa è una squadra assolutamente in confusione. È una squadra che... Si sta avvitando, si è avvitata. Si sta avvitando e secondo me insomma è sotto qualsiasi limite sindacale. Ma secondo te Seedorf è l'allenatore su cui il Milan fa bene a puntare? Poi lo chiediamo anche agli amici da casa, stanno già aspettando. Avevo detto dopo l'esonero di Allegri che non mi aspettavo nettamente 7 sconfitte in 12 partite, lo dico, perché non voglio barare, non mi aspettavo che andasse così male. Però avevo sottolineato il rischio che Seedorf con una squadra e con una squadra presa a metà stagione potesse bruciarsi. Questa idea ce la devo e mi sembra che questo rischio lo sta correndo. Enzo dalla provincia di Carbonia Iglesias. Enzo. Sì. Prego. La mia considerazione è questa. Io sono un tifoso juventino e ho visto la partita appunto Milan Juventus, sì. il Milan giocando con una squadra come la Juventus che sa giocare ha fatto forse una delle migliori partite. Il problema del Milan, secondo me, è la difesa. Noi parliamo di Ballotelli, il problema non è Ballotelli, secondo me. Il problema è proprio la difesa. Nel momento in cui trova squadre tipo il Parma, che attacca, che ha delle persone veloci, entrano con facilità nella difesa, così anche in Coppa dei Campioni. Sì, sì, al di là della difesa, forse proprio di tutta la fase difensiva per come è organizzata, ma del resto qualche dubbio, Pier, l'avevamo sollevato anche all'inizio, quando è arrivato Seedorf con questo 4-2 fantasia. Aspetta che sentiamo anche Stefano da Como. Stefano. Sì, buongiorno. Prego. Allora, secondo me voi però state sbagliando l'obiettivo, perché prima vi siete permessi di dire che cosa parlavano Balotelli e Cassano. Secondo voi Balotelli e Cassano che intelligenza hanno per parlare di che cosa? Potevano parlare di macchine, di donne, di PlayStation. Non esageri, secondo Stefano. Me secondo me parlavano del Milan. Ma chi idolatra Balotelli? Balotelli oggi ha avuto un atteggiamento positivo allo stadio. Io ero allo stadio. Cioè Balotelli si è permesso due o tre volte di zittire i tifosi, di applaudire i tifosi che lo contestavano. Ma dopo la prestazione che ha fatto, così. Cioè, e voi ne avete tessuto le lodi. Ma nessuno ha tessuto le lodi di nessuno, io Stefano. Scusami, Pier. No, posso dire una cosa però a livello personale? Io credo che Balotelli, e mi dispiace dirlo, di questo momento qui abbia capito pochissimo. E mi dispiace dirlo perché io auguro a Balotelli una grande carriera e un grande futuro. Ma secondo me a Roma diciamo che ci sono dei momenti che stai martello e momenti che stai incudine. A Milano si dice che ci sono dei momenti in cui devi stare schiscio. E i risultati non arrivano perché probabilmente tutto quello che potevi fare per fare una stagione diversa non l'hai fatto, e comunque sei un privilegiato che guadagna un sacco di soldi, i tifosi ti danno i soldi per venire allo stadio, si sentono traditi e devi essere rispettoso della gente che paga il biglietto e che ti vuole bene. E comunque mi sembra che qui l'analisi su Balotelli non sia stata poi così buonista. No, io ho detto soltanto che rispetto alla situazione pensavo peggio, ecco. Sì, c'è stato un momento in cui gli insulti erano molto diretti, erano continui. Invece lui insomma ha bozzato, non c'è stata proprio una reazione che si è impegnato abbastanza nella Balotelli poteva anche esserci. Si è impegnato abbastanza nella partita. Vi facciamo sentire ancora un pezzettino di Seedorf da Sky. Seedorf. Discorso che accetti oppure rifiuti in toto? Ah, ma per forza devo accettare perché non posso scrivere per gli altri, quindi, e poi credo che la mia umiltà è il lavoro che faccio tutti i giorni. Io lavoro duramente, con impegno, con grande serietà, non vedo che ho detto cose che sono fuori di arroganza o quelle che secondo me sono abbastanza obiettivo nelle cose che cerco di fare. So che devo imparare tante cose, so che è una strada lunga, diciamo come carriera di allenatore, ma so anche che ho tante certezze per aver vissuto 22 anni e comunque in questo mondo tante cose non cambiano, sia da allenatore sia da giocatore, per esempio per capire cosa stanno vivendo i ragazzi in questo momento, quindi sinceramente accetto opinioni di tutti, ma spero che siano sempre comunque obiettive. Sì, perché oggi in molti hanno scritto che l'attacco ad Allegri non è stato elegantissimo. Pier, traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24, noi i telefoni li teniamo aperti, poi fra qualche minuto vi diamo anche i dettagli del colloquio tra la delegazione dei capi ultra e la squadra del Milan. Proviamo però, Pier, per qualche minuto a parlare di qualcos'altro, parliamo di Juventus ad esempio? Ma sì, è un po' meno interessante direi, no? Nel senso che la situazione è un pochino meno calda, la Juve ha una situazione fantastica. Dal mio punto di vista del campionato è interessante capire appunto stasera con che formazione scenderà in campo, perché questo sarà un indizio anche di quella che vedremo invece a Firenze, e che a questo punto secondo me diventa la vera finale della stagione della Juve. La Roma è troppo lontana in questo momento per fare scelte. Sì, lo scudetto è vinto, te lo dice uno che fino a due settimane fa considerava il campionato aperto. Mi piacerebbe sapere cosa pensa Giampiero Mughini della domanda che sta dividendo un po' i tifosi della Juventus. Cioè, intanto lo saluto, buonasera Mughini. Buonasera, bentrovati. Se abbia senso sacrificare l'Europa League per fare questi famosi 100 punti in campionato, stabilire questo record, addirittura in settimana si è scritto senza smentita di un premio per i 100 punti e non un premio per l'Europa League. A me sembra una follia, ma questo è il mio pensiero. Mughini. Allora, lasciamo stare i 100 punti, quelli proprio nemmeno li menzioniamo. Poi se mettere giovedì i giocatori che lui ha messo, oppure mettere invece Sivori, Gianluca Vialli e Zidane. Onestamente lui non è che ha messo quattro cretini, Isla passava per un giocatore formidabile, cowboy, e quando la Juve lo prese tutti dissero che bel acquisto. Poi chi c'era ancora? Cáceres è un ottimo giocatore, nessuno lo può negare. E poi sai, ogni partita c'era la Fiorentina, il punto non era chi avessimo messo o no, il punto è che la Fiorentina ha fatto una bella partita, dopo i primi 15 minuti in cui era knockout tecnico si è ripresa, ha degli ottimi giocatori, quando hanno la palla la giocano e la movimentano. Sì, però c'è stato anche un Conte un po' diverso, anche nel dopo partita. Conte quest'anno, nelle rarissime occasioni in cui la Juventus ha steccato in campionato, dopo partita ha promesso punizioni, le ha anche date. Non lo so, a me ha dato l'idea di uno che in fondo, io non dico passasse lì per caso, però non fosse poi così, così coinvolto, così interessato. Poi magari giovedì la Juventus vince a Firenze 2-0 e stiamo discutendo del nulla, ma visto che se ne scritto. Il futuro. Ma lasciamo stare il futuro, che è nelle mani di Dio, ovviamente, e il Dio del calcio è uno dei più bizzarri fra tutti gli dei. Il punto è che giovedì c'era una partita, stasera ce n'è un'altra sicuramente decisiva per uno scudetto che non è affatto vinto, ce n'è un altro, c'è anzi una sequenza in questo terribile mese di marzo che potrebbe sfiancare un elefante. Che Conte misuri le forze, tenendo presente che in una grande squadra i titolari non sono 11 ma perlomeno 15-16, a me sembra sacrosanto. Pier, cosa ne pensi tu? Ma io penso che sicuramente Isla, Ubon, Cáceres sono buoni, anzi buonissimi giocatori, ma che in questo momento la partita è silenzio. E quindi Se hai un livello di qualità 10 e un livello di qualità 9, tu devi mettere il livello di qualità 10 nella partita di Firenze, perché secondo me è nettamente la più importante del prossimo futuro. Invece mi pare di capire che stasera giochino Asamoah e Lichtsteiner, giochi la difesa titolare, quindi evidentemente Conte fa una riflessione diversa, Pier. Ma c'è un campionato aperto. Ma è vinto il campionato. Ma no signore, ti prego, sii cortese. Ci sono 11 partite, e che partite. Un campionato, tutti noi che amiamo il calcio, abbiamo visto dei campionati perduti nelle ultime 7 giornate. Quel che accadde a Perugia è una cosa che appartiene alla storia dell'orrore del mondo. E allora? Beh, insomma, sì, diciamo che Giampiero, che è uno dei massimi rappresentanti del tipo bianconero, non so se questo potere di rappresentazione gli piacerà. Io non sono un rappresentante di niente. Rappresenta se stesso. Anch'io rappresento malapena me stesso, però voglio dire, comunque forse identifica una fetta o un consentimento che sarà presente in qualche tifoso della Juve, no? E che poi è un marchio di fabbrica di questa squadra, che non molla mai in campionato, perché comunque ha un livello di concentrazione e di attenzione per i minimi dettagli di un certo tipo. Quindi probabilmente questo qui è veramente il punto di vista di Conte, perché altrimenti certe scelte non si spiegano, perché comunque nell'andata contro la Fiorentina, scegliendo di giocare con quella squadra lì, di fare comunque quella bozza di turnover, ha perso il passo, no? Nel senso che se lui avesse fatto le scelte di tipo diverso, scegliendo i migliori per quella partita lì, oggi poteva fare un pochino di rotazione. Ma sai cosa c'è, Pier? Che gli assenti hanno sempre ragione. Metteva, non so, Lichtsteiner o chi altri e così via, e la Fiorentina faceva ugualmente un pari strameritatissimo. Sì, in fondo la Fiorentina c'era andata vicina anche ragione. In campionato con i titolari della Juventus. Yelpo. No, c'è anche un altro punto di vista, che è quello che l'allenatore deve tenere in considerazione un po' tutta la rosa, nel senso che a volte può sacrificare un obiettivo un po' di minor livello per quanto riguarda la squadra, quindi in questo caso la Coppa, per tenere tutta la rosa pronta per l'obiettivo principale. Se tu non li fai giocare, se tu vieni meno al patto che hai con alcuni patto non scritto, patto non detto, sì, però perdi di credibilità nello spogliatoio, di farli giocare quando è possibile, non li fai mai giocare, poi non sono pronti quando ti servono per vincere il campionato. C'è anche questo è importante tenere in presente. C'è questo, allora, che si debba fare rotazione con questa densità di appuntamenti non ci sono dubbi, semplicemente è, secondo me, la scelta di dopo la vittoria con la Fiorentina in campionato, dopo la sconfitta della Roma a Napoli, perché prima il discorso poteva essere diverso, è la scelta fra qual è la competizione e la partita in questo momento più importante dell'altra. È tutto qui, che si debba fare dotazione non ci sono dubbi, la Juve ha il dovere di gestire i giocatori per il benessere complessivo del gruppo, per la serenità del gruppo. Sappiamo che la gestione dello spogliatoio è un aspetto fondamentale, quindi su questo non ci sono dubbi, però secondo me, ripeto, le due partite fondamentali sono le due di Europa League in questo momento. Poi se la Roma dovesse riavvicinarsi e portarsi a meno 4, meno 5, le cose cambierebbero. Sono d'accordo con Pierre, anche perché io ho fatto una ricerca: l'ultima volta che la Juventus ha vinto un trofeo internazionale era 18 anni fa. Cioè, secondo me si sta un po' sottovalutando anche che la Juventus ha bisogno, Mughini, di recuperare una dimensione internazionale da grande club, che in questo momento non hai. Non è solo una questione, ragazzi, di fatturato. Non ce l'hai e non ce l'hai, non dipende dal fatto che metti gli Steiner o Isla, non ce l'hai, punto e basta, perché ahimè il calcio italiano, in questo io sono stato inavveduto in una conversazione recente con Freccero, aveva ragione lui, il calcio italiano è sceso di 1, 2, 3 gradini, e quindi cosa vuoi fare? È sceso perché il destino maledetto non ci ha dato una razza di campioni quale era venuta in passato, ed è sceso, ragazzi, perché il dio denaro, sì, mancano denaro, i fondamentali, ahimè, chiedetene qualcosa al Milan e ai suoi tifosi, il dio denaro latita. Grazie a Giampiero Mughini. Buon lavoro, domani. Ciao Pier, a domani. Buona serata e buona partita. 800 24 00 24, allora i dettagli del colloquio tra i capi ultra e il Milan. C'è poca gente attaccata alla maglia e che sappia cosa significa stare al Milan. Io prendo da un sito molto informato, milannews.it, molto vicino anche alle anime della curva. E poi Balotelli, che viene ancora considerato il giocatore più forte, i tifosi si aspettano molto. Balotelli, che si sarebbe scusato per alcuni atteggiamenti e avrebbe promesso maggiore impegno. E poi l'impegno da parte dei senatori del gruppo a ricompattare la rosa per finire in maniera dignitosa questa stagione. 800 24 00 24, proviamo velocemente. Pasquale dalla provincia di Foggia. Pasquale, buon pomeriggio. Prego. Io sono un tifoso del Milan e voglio fare una domanda a Brughini. Sì, che però non c'è. Lo voglio dire a Brughini, perché il Milan c'ha 35 punti in classifica. E poi voglio dire a Brughini, perché c'ha Pacchini in panchina e si fissa su Balotelli. Voglio fare questa domanda a Brughini. Sì, lo chiediamo a Brughini Pierluigi Pardo. Pier. Sì, è Brughini. Allora ti risponderà come Brughini. No, sentiamo, guarda, Brughini. Sul discorso Balotelli-Pazzini, io credo che Balotelli, chiaramente, dal punto di vista del potenziale, soprattutto del calcio, inteso proprio come gesto tecnico, no? Come potenza di tiro, sia un giocatore straordinario, però è chiaro che è un giocatore che ha degli alti e dei bassi che sono imbarazzanti. Pier, scusa se ti interrompo, però bisogna a un certo punto dire la verità su Balotelli. Cioè, Balotelli non sa giocare a calcio. Questa è una cosa che purtroppo, se o almeno non sa, mi correggo, non sa giocare a calcio da centravanti. Io non so se lui nella primavera. Ma insomma, sì, eh? Capito. Non sto. Cioè, guarda, secondo me è una verità obiettiva. Lui non sa fare un movimento che un centravanti deve fare. E se qualcuno non glielo insegna, o se lui non ha l'umiltà di impararlo, e i limiti in quel ruolo rimangono questi. A me sembra che anche Prandelli per qualche mese, Pier, abbia accarezzato l'idea di mettere un altro centravanti vicino a Balotelli. Quello che stavo dicendo è che Pazzini, che ha meno talento in assoluto, sa giocare da centravanti. Balotelli però ha una qualità, una tecnica, una tattica nel gioco d'attaccante nettamente superiore. Il tema qualche settimana fa noi l'avevamo già proposto. Sì, il Milan che gioca meglio con Pazzini, la controprova o meno peggio. Anche perché Pazzini è stato fuori per tanto tempo quest'anno. Quindi questo... Sì, comunque oggi Pazzini è entrato, mi sembra abbia fatto bene in quei minuti, sì, che ha avuto a disposizione. Fa sempre il massimo che può. Pier, ci dobbiamo fermare, stai lì. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Tutti convocati. Cacà, Bonera, Balotelli, Abate e Seedorf erano i giocatori, comunque lo staff del Milan che ha incontrato i capi della Curva Sud nella sala executive dello stadio di San Siro. Lo ricordo, i capi d'accusa dei tifosi, c'è poca gente attaccata alla maglia, Balotelli è il giocatore più forte, ci si aspetta di più dalla prossima stagione. Seedorf ha detto che si cambierà registro e i senatori del gruppo hanno garantito che cercheranno di compattare la squadra per finire in maniera dignitosa questa stagione. E poi Balotelli, che si sarebbe scusato per alcuni atteggiamenti delle ultime settimane promettendo maggior impegno. Questi i dettagli del colloquio durato 5-6 minuti tra i tifosi del Milan e la squadra, una delegazione della squadra. Colloquio che ha chiuso una giornata, Pier, che abbiamo definito da psicodramma a San Siro. Sì, anche se poi in realtà il vero paradosso è che era già finito tutto, cioè prima ancora di questa partita. Se anche il Milan avesse pareggiato, o se addirittura anche se avesse vinto, forse avrebbe in qualche modo riaperto il discorso Europa League, ma non cambiava la sostanza. La sostanza è che per far meglio si è fatto peggio, cioè per dare una stossa dopo quella maledetta per il Milan, Sassuolo-Milan, si è tolto anche quel minimo di organizzazione, di esperienza a questa squadra. Cioè io sinceramente oggi sarebbe interessante sentire Allegri, no? Ti faccio sentire invece Gagliani su Allegri e Seedorf e sul cambio deciso dopo quella notte, quella della sconfitta col Sassuolo. Gagliani prima della partita oggi. Quindi io ho sempre difeso Allegri, che ha fatto molto bene per 3 anni, che ha fatto bene in Champions League anche quest'anno, poi la società, me compreso evidentemente, perché questa cosa qui che Seedorf non l'ho voluto io non è vera, tutte le decisioni che abbiamo preso nel Milan in questi anni, gli acquisti, le vendite, gli allenatori, i subentri, sono sempre stati concordati dal presidente sottoscritto, quindi Seedorf l'ho voluto assolutamente anch'io. Dopo 22 punti nel girone d'andata con Allegri è un buonissimo rapporto, ma lui stesso ha capito che è difficile. Carissimo Pier, sarebbe bello sentire Allegri, io però ti leggo che cosa oggi ha scritto Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport, Alessandra Bocci che credo di poter dire abbia parlato nelle scorse ore con Allegri, così come ha fatto Mario Ielpo, che ci ha raccontato del suo incontro in settimana con Allegri. Ha scritto la Bocci di un Allegri molto arrabbiato per le parole di ieri di Seedorf, Allegri che non ritiene di essere un allenatore scarso, che ha vinto Scudetto e Supercoppa solo per merito di fuoriclasse, che soprattutto ritiene di aver raggiunto il risultato richiesto dalla società in questa stagione, e cioè la qualificazione alla Champions League, passando dal preliminare, e poi che ride del giudizio dato da Seedorf, che lo accusa di aver usato il bastone, lui che spesso era stato criticato per la mollezza nei confronti dei giocatori. Non ci sono i virgolettati, ma tu sai come vanno le cose. Io ti dico la verità, l'attacco di Seedorf non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente, perché io credo che se uno si prende una responsabilità poi esiste uno stile, e questo stile deve essere ottenuto. Seedorf ha fatto benissimo a venire a allenare il Milan, è un grande uomo di calcio, un grande uomo di esperienza, il suo carisma non è in discussione, però stavolta non mi è piaciuto, perché nel momento nel quale tu comunque lavori da 11 partite, 12 con quella di oggi, e sei ampiamente sotto al par, e sei stato preso per dare una scossa a questa squadra, la scossa non è arrivata, Sei ampiamente responsabile. Sì, qualche responsabilità te la devi prendere. Ma assolutamente, cioè non è. Sono d'accordo con te. Non puoi prendere una macchina e poi se le cose vanno bene sei bravo tu, e se le cose vanno male è colpa di quello prima. Se le cose vanno male è colpa tua, così come se le cose vanno bene è merito tuo, perché dopo 12 partite si può fare un primo bilancio. Il bilancio è che purtroppo per il Milan la scossa non c'è stata, anzi. Forse il modo, l'atteggiamento, ci sono dei segnali che poi credo abbiano dato fastidio ai tifosi, c'è questa famosa scena dei giocatori che ridevano guardando l'iPad 20 minuti prima del calcio d'inizio di Atletico Madrid-Milan, che è una scena che secondo me non è piaciuta affatto ai tifosi. Sì, gli scherzi all'aeroporto di Madrid al ritorno dopo quella trasferta. Queste robe qui. Ora, è vero che il calcio è gioia, assolutamente, e non deve diventare una prigione. E i calciatori sono ragazzi che devono divertirsi nel giocare a pallone, avere la voglia di vincere. Però ci sono momenti e momenti. Però ci sono momenti e momenti. Sì, dai. Io non ho capito da Jelpo se Seedorf è l'allenatore giusto per ripartire fra un anno, insomma, dopo l'estate, nella prossima stagione. Non lo so, non ha la mia mentalità di calcio. Io sono abituato al calcio che, non so, da Milanello a qui non volava una mosca sul pullman, non poteva squillare un telefono, non si accendeva una luce, tutto buio. Quando c'erano le partite importanti non parlava nessuno fino all'arrivo. Se partiva una risata, Capello si alzava e li ribaltava tutti. Sai chi la pensa come te? Boban, un mazzone che se tu giocavi contro una squadra dove conoscevi due o tre giocatori e prima della partita ti diceva se vai a salutare quegli altri non ti faccio giocare. Sì, è tutto cambiato. Claudio dalla provincia di Brescia. Claudio, prego. Buonasera, sì, volevo intervenire appunto sul Milan. Sono tifoso milanista e mi spiace che la pure della squadra sia in questa situazione. Pronto? Sì, dica, prego. Sì, certamente la colpa, non lo so, io penso, dico anche a amici così, che il declino è cominciato non solo quando abbiamo ceduto le due perle, anche quando abbiamo ceduto Pirlo, che sta facendo 3 anni ottimi alla Juventus e non era da cedere soprattutto alla Juventus. E poi questa diarchia tra la Barbara Berlusconi e Gagliani non l'ho capita. Sì, non mi sembra soprattutto Pier che abbia migliorato la situazione. No, non ha assolutamente migliorata. Ora poi nello specifico la decisione di far partire Pirlo è una decisione avallata quantomeno da Allegri, se non addirittura consigliata da Allegri, per cui qui gli errori sono assortiti, non è che dobbiamo decidere, non c'è da una parte il bene assoluto e dall'altra il male assoluto, qui c'è una sostanza di una squadra in difficoltà dal punto di vista economico negli ultimi anni, che invece di cominciare una politica di giovani, una politica di chiarezza nei confronti dei tifosi, ha provato ad aggrapparsi allo stellone, alla capacità di essere comunque il Milan e quindi di poter attrarre alcuni giocatori, di rivitalizzarne altri, e oggi drammaticamente dal punto di vista sportivo queste scommesse sono quasi tutte perse. È molto semplice, Seedorf è l'ennesima scommessa, perché comunque sia, con tutto il carisma che io gli riconosco, è uno che non ha mai allenato una partita prima di Milan-Verona il giorno del suo esordio in rossonero. Sì, c'è, no? C'è una gavetta e un'esperienza da fare anche molto in fretta. Possono servirgli queste ultime 10 giornate, però poi da settembre credo che gli sarà permesso anche molto meno, anche a livello di sorrisi, di spiegazioni, di giustificazioni. Alessandro dalla provincia di Genova. Alessandro. Sì, buonasera. Prego. Io premetto che sono un tifoso interista, sì. E dico chi semina vento raccoglie tempesta. Con piacere noto che finalmente un po' chi si occupa di giornalismo calcistico e altro inizia un po' a vedere nel Milan quello che forse già da qualche anno sta succedendo, andare a rubare i giocatori uno all'altro, far mettere la maglietta del Milan a Balotelli con Striscia la Notizia, insomma fare un po' tutte queste cose, oppure presentarsi prima di partire per Madrid e dire andrò a cena con Florentino Perez e mi farò spiegare come battere l'Atletico Madrid, che poi il Real non ce l'aveva neanche fatta, tra l'altro. Comunque, insomma, comincia un po' a emergere tutto quello che è questo stile Milan, che insomma negli ultimi anni ha dato spettacolo. Quello che a me dà da pensare, concludo l'intervento, sono due cose. Uno, che siamo alle soglie ormai di nuovo delle elezioni europee, magari vi viene regalato un nuovo qualcosa al Milan, come l'anno scorso, se vi ricordate, prima delle elezioni politiche. Sì, io non so che cosa possa essere regalato, però no, Alessandro, certo, a me non piace quando si mischia poi politica e calcio, anche se evidentemente in questi 20 anni è capitato. Balotelli fu acquistato come grande giocatore, ma fu acquistato anche come spot politico, sì, non dimentichiamocelo. Ma per fortuna del Milan, io dico, Pier, il mercato è chiuso da qui alle europee, che sono, se non sbaglio, il 22 maggio o giù di lì, insomma. Ci sono pochi margini di intervento. Carlo dalla provincia di Verona. Carlo. Ciao, buonasera. Prego. E grazie e complimenti per la trasmissione. Allora, io sono tifoso del Chievo. Sì. Ecco, secondo me invece quello che sta succedendo è un po' la logica conclusione dell'assenza di un progetto, come si diceva prima, no? Ma un progetto che probabilmente spiega il ruolo stesso di Milano come città capitale del calcio, perché è in crisi l'Inter, è in crisi il Milan, e probabilmente anche con conseguenza delle nuove regole della UEFA, con in più tutto quello che è avvenuto addosso alla proprietà del Milan, che penso debba essere comunque considerata positivamente dai tifosi. Sì, sì, c'è una situazione che non è solo il calcio, Carlo, hai ragione. Io però credo che si debba anche fare un progetto più complessivo, perché sia tutto il calcio italiano, Piera, a uscire da questo momento, che non è soltanto legato alle difficoltà delle singole famiglie, vale anche per la famiglia Moratti. Poi non dobbiamo comunque dimenticarci che noi abbiamo dei ritardi che sono strutturali e che noi stiamo pagando, stanno pagando tutti, sta pagando l'Inter, il Milan, in parte anche la Juventus, ne abbiamo parlato prima. Sì, sicuramente. La difficoltà è complessiva, poi ci sono delle situazioni di società che sono riuscite magari con più programmazione, con più. Io credo che in questo momento la differenza spesso la facciano veramente i direttori sportivi, penso che il caso della Roma con Sabatini, e parliamo di una società che comunque ha passato due anni tremendi dal punto di vista dei risultati sportivi, perché ha sbagliato gli allenatori e perché aveva probabilmente puntato su una squadra troppo sperimentale. Però anche in quei due anni, che sono stati due anni di fallimento, la Roma è riuscita a costruire delle storie di giocatori che poi, vendendo, è riuscita hanno posto le basi per la stagione che stiamo vivendo quest'anno, che stiamo vedendo quest'anno. Per cui io credo che la differenza la faccia veramente la programmazione. In un mondo del calcio nel quale i soldi sono meno di prima, servono le idee, c'è poco da discutere, insomma. Sì, scrive un amico al 349-238-6666: al Milan serve un direttore sportivo che conosca i giovani e un allenatore giovane che sappia come allenarli. Seedorf è vecchio nonostante l'età, vecchio credo di interpretare, perché parla ancora di un calcio che evidentemente non è quello del Milan di oggi. Poi ancora altri messaggi: chi mischia politica e calcio è un frustrato, il Milan se vuole rinascere deve eliminare Barbara, Berlusconi e Balotelli, basta incompetenti, molti sono attaccati alla maglia solo perché sudano. Poi c'è chi scrive: l'intelligenza di Balotelli e Cassano rappresenta l'opportuno fulcro di una trasmissione, ma per favore, ma perché si deve andare sul personale? Io francamente non riesco a capirlo, Pier. Non ho capito di Cassano. No, cioè, la polemica sul fatto che Cassano e Balotelli non possono discutere di niente che non sia la PlayStation. Cassano calcisticamente è un genio. Assolutamente. Bisogna... ma anche oggi ha fatto una bella partita. È un genio del calcio. Molto intelligente. Non so se l'hai sentito sul discorso nazionale, anzi mi sembra che abbia risposto in maniera anche molto matura alle sollecitazioni dopo la partita sulla questione nazionale, Pier. Sì, dico una cosa a costo di essere scambiato per amico e basta. Io penso che discutere il posto in nazionale per Cassano, cioè il fatto che Cassano col campionato che sta facendo non abbia la certezza di andare in Brasile e che anzi forse se ci andrà dovrà sentirsi un miracolato per non si sa bene quale motivo, mi sembra oggettivamente assurdo per quella che è la situazione del calcio italiano di oggi, punto. Cioè, è un giocatore che quattro mesi fa faceva cose discrete, adesso è in una condizione incredibile, sta portando il Parma a dei livelli eccezionali con altri buoni giocatori, Parolo, Paletta, Mauri, Gobbi, cioè il Parma sta facendo benissimo, Mirante, però Cassano è il protagonista di questo miracolo, è il giocatore che ha cambiato proprio la dimensione di questa squadra e che oggi si debba stare aggrappato a forse Prandelli cambierà idea e gli darà un'opportunità. Mi sembra assurdo. Sì, mi pare di aver capito tra le righe, sentendo l'oggi, che gli piacerebbe, ma ci crede poco, molto poco, cosa che credo sia l'esatta fotografia di quello che può accadere in questi tre mesi che ci separano dal Mondiale. Tutti convocati. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo, c'è Mario Ielpo, c'è Michele da Milano. Michele. Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo ritornare sul discorso di Seedorf, allenatore giusto per questo Milan. Io sono un po' basito dalle sue scelte tattiche, dal suo integralismo, soprattutto questo discorso di De Sciglio che non può giocare a sinistra quando è lo stesso che dichiara che a sinistra si diverte molto di più. E poi questa riproposizione continua dell'olandese Manuelsson che è scandalosa. Era solo, volevo un parere vostro di Ielpo, che mi piace molto, e chiaramente anche di Pardo. Avvocato Ielpo. Ma l'abbiamo già detto, poi l'altro ascoltatore si è lamentato dello stesso punto. Secondo me è un grave errore tattico. Io specialmente con i centrali che ha il Milan, che sono sempre, chiunque si mette a parte Zapata, un po' lenti, un po' raffazzonati, perché insomma hanno dei problemi, e giocare con un ala terzino non ce lo vedo. Milan ha anche problemi a centrocampo, non, sì, vedo, non se lo può permettere, no, in non questo vedo momento. Perché non mettere sui terzini i terzini. Emanuelson a centrocampo non è un brutto giocatore, Emanuelson, ma giochi a centrocampo. Paolo da Carrara. Paolo, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Prego. Allora, volevo dire due cose sul turnover di Conte. Secondo me Conte punta a entrare nella storia vincendo il terzo scudetto di fila, quando un campionato così di livello basso vince 3 volte di fila, secondo me vuol dire poco. Soprattutto se poi puoi fare 100 punti, che in un campionato normale una squadra 100 punti non lo fa, in un campionato equilibrato, primo. Secondo, volevo dire che secondo me fa giocare a tutti i costi Isla, quando Padolin secondo me è molto più valido. Non sarà un fenomeno, ma due cross a partita di fa Isla. Sì, anche se Isla mi sembra che giovedì sia stato comunque autore di una prestazione sufficiente. Però mi pare di capire, Paolo, che non le piaccia tanto l'idea di sacrificare l'Europa League per inseguire il mito di questi 100 punti. Proviamo a chiedere a Guido Vaciago, inviato di Tutto Sport, che Juventus vediamo stasera, allora, tirata la sintesi. Ciao, vediamo Guido. Ciao, buonasera a tutti intanto, buonasera agli ascoltatori. No, vediamo la Juve titolare, tranne Tevez, che è rimasto a Torino a curarsi, a tirarsi a lucido per giovedì, quando ci sarà di sicuro al Franchi. Quindi non si è fatto impressionare Conte anche dalle critiche che gli sono arrivate. Tutto Sport credo che in settimana abbia pubblicato un sondaggio, i tifosi della Juve preferirebbero l'Europa League o almeno inseguirla, sì. Anche all'ipotesi dei 100 punti. Questo sì, guarda, l'ipotesi di 100 punti mi sembra una cosa dalla quale bisognerebbe sgombrare il campo. Non esistono premi per i 100 punti, la società mi sembra che li abbia smentiti in maniera piuttosto secca. Esistono premi solo per vincere un trofeo, quindi sia che la Juve vinca il campionato sia che la Juve vinca l'Europa League esistono dei premi stabiliti peraltro sui contratti dei giocatori, quindi questo giusto per sgomberare il campo da un equivoco che è nato in questi giorni sul fatto che i giocatori si impegnerebbero di più in campionato perché legato ai 100 punti ci sarebbe un premio. Ecco, direi che tutto questo possiamo toglierlo come argomento. Riguardo alle critiche, sì, è vero, noi abbiamo pubblicato un sondaggio nel quale i tifosi criticavano Conte, criticavano le scelte di turnover perché volevano, i tifosi hanno dimostrato di tenere moltissimo all'Europa League. Ebbene, io credo che però le critiche a Conte siano state in questo caso sbagliate, ma non perché non si può criticare Conte, ma perché non mi sembra che poi il problema di giovedì sia stato il turnover. Non c'erano scelte di Conte in quella formazione, c'erano scelte piuttosto obbligate. Barzagli aveva un problema di tendinopatia, Bonucci aveva avuto la febbre fino a 12 ore prima della partita e Tevez... Sì, però ad esempio, Pier, ne abbiamo parlato, però questa sera gioca la formazione titolare, magari questa sera si poteva fare qualche scelta diversa, che Pierluigi mi sembra faccia invece Montella, perché leggo nelle possibili formazioni in panchina Aquilani, Ilicic, Gomez, insomma qualche scelta un po' più oculata forse, o comunque di risparmio di energie. Pier. Questo è un campionato che ha detto molto ormai, cioè io credo che sinceramente le gerarchie sono abbastanza ben definite e chiamano per un impegno europeo che ancora ce l'ha di un certo tipo, quindi la Fiorentina fa benissimo a priorizzare su Fiorentina Juve perché difficilmente andrà in Champions League, anzi è praticamente impossibile, e altrettanto difficilmente non andrà in Europa League, e credo che la Juve dovrà fare lo stesso tipo di discorso. Ripeto, è una situazione abbastanza nuova perché la certificazione dello scudetto per me c'è stata definitivamente dopo Juve Fiorentina e Napoli Roma. Sì, dopo l'ultima giornata. Fino alla settimana fa sicuramente Conte faceva bene a usare tutte le precauzioni. Adesso onestamente io rispetto a Mughini non sono completamente d'accordo. Cioè, capisco anche diciamo così le scaramanzie da tifoso, il massimo dello zero. Sì, ma questo è un campionato finito. Diciamo questo, più forte lo vincerà. Questo è un campionato finito. Pier, ti saluto, a domani. Ciao ragazzi, ciao. Guido, prima di lasciarti invece hai 30 secondi per dirmi quanto spartiacque è Firenze nella valutazione della stagione della Juve. 30 secondi. Il 30 ti ripeto con un 30%, cioè io credo che la stagione della Juve si valuti sull'arco sul campionato. Io credo che passare o non passare a Firenze incida per il 30%. Quindi anche perché non sarà eventualmente giudicato un fallimento? Io credo proprio di no. ma anche perché poi non è che quella è la finale di Europa League, una volta che uno ha superato quella partita ci sono i quarti, ci sono altre cinque partite, quelle che sono. È una scommessa l'Europa League. Grazie Guido Vacciago, siamo in chiusura, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia, ringrazio anche l'avvocato Mario Ielpo che ha provato a difendere il Milan. Tutti i convocati tornano domani dalle 14.05, noi invece ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19 in diretta. Ciao a tutti.